siamo un mondo intero, dal popolo gli viene, dal popolo il ritiro, per questo gli combatte, per questo non si piega. Es non è morto, ma vive per noi. Es non è morto, ma vive per noi. Es non è morto, ma vive per noi. Es non è morto, ma vive per noi. Che ci hanno già fregato, si vestono da buoni, pensano solo al peculato. C'è troppo odor di marcio, c'è troppo odor di fogna. Noi quei polizi li vogliamo alla gogna. Europa armata, ora sovietizzata. Europa armata, ora sovietizzata. Es non è morto, ma vive per noi. Es non è morto, ma vive per noi. Europa armata, però sovietizzata. Europa armata, però sovietizzata. Es non è morto. Es non è morto. Es non è morto, ma vive per noi. Es non è morto, ma vive per noi. Europa armata, però sovietizzata. Europa armata, però sovietizzata. Es non è morto. Es non è morto. Es non è morto. Oi!